Un saluto a chi sta ascoltando Radio Onda Rossa, ringrazio la professoressa Valentina Pisanti, semiologa, docente italiana, insegna proprio semiotica all'Università di Bergamo. Con lei parliamo del libro L'antisemitismo, edito da Bompiani, uscito da poco. Professoressa, la ringrazio per questa intervista. Grazie a lei, giusto per precisare, il titolo del libro è Antisemita, una parola in ostaggio. Perfetto, antisemita è una parola in ostaggio, edito da Bompiani. Volevo iniziare con lei, perché è stata usata proprio la parola antisemitismo, dalla cronaca. In questi giorni abbiamo assistito, penso, alla prima conferenza, se non mi sbaglio, sull'antisemitismo che si è svolta il 26 e il 27 marzo scorso a Tel Aviv. E che si intitola proprio Antisemitismo. Il governo israeliano ha invitato tantissime personalità mondiali, dal presidente argentino Milei a tantissimi esponenti delle destre europee. Nel panel ci sono tantissimi esponenti delle destre nordamericane e statunitense, ma la cosa che mi aveva maggiormente colpito è che prima della conferenza, nella prima giornata, è stato indetto un tour privato solo su inviti per andare a guardare quella che è il Libano, ma che gli israeliani chiamano la Giudea, per andare a vedere la Giudea, la Samaria e andare a vedere i luoghi dei massacri del 7 ottobre. La prima domanda, ovviamente, è una parola in ostaggio. Lei fa proprio all'inizio di questo libro: ogni guerra è anche una guerra di parole. Lei inizia proprio così il libro. Quindi io le chiedo quanto appunto tutto quello che questo convegno, nella sua apertura, quindi legare l'antisemitismo già al colonialismo. Quelli che hanno Hamas, o quelli del 7 ottobre, o i libanesi, eccetera, e non riportare la parola nel suo reale significato, quanto insomma tutto questo è anche una guerra di parole. Io quando scrivevo questo libro qualche mese fa avanzavo un'ipotesi, un'ipotesi forte, e cioè che fosse in corso uno scambio di favori tra i governi, il governo di ultradestra israeliano e le destre europee, le ultradestre europee, e che questo scambio consistesse nel richiedere un supporto incondizionato alle politiche israeliane in cambio di una sorta di lavacro lustrale per cui tutti i leader dei partiti xenofobi occidentali e non solo, che si recano in Israele nei luoghi della memoria e in quell'occasione si esprimono con veemenza contro gli attuali nemici di Israele, in qualche maniera tornano a casa ripuliti dal loro passato e anche il loro presente di razzismo, antisemitismo, xenofobia, eccetera, liberi poi di praticare qualsiasi politica a danno delle minoranze di volta in volta prese di mira. Mi pareva che questo scambio di favori fosse implicito, ma piuttosto evidente nei fatti, salvo che adesso non è neanche implicito, a questo punto è del tutto esplicito. Questo convegno lo dimostra apertamente, non c'è neanche bisogno di analizzare più le situazioni per capire che questo convegno, che non è il primo convegno sull'antisemitismo che si tiene in Israele, ma sicuramente è il primo convegno sull'antisemitismo in cui tutti gli ospiti sono antisemiti. Cioè, sono antisemiti nel senso proprio del termine, nel senso che sono eredi di formazioni politiche che rivendicano dal passato esplicitamente antisemita, e anche nel presente, oltre a essere, appunto, oltre ad avere tutti i caratteri ideologici di partiti di estrema destra, razzista, eccetera, hanno anche, indulgono in attività antisemite, vedi per esempio il loro attiva ruolo nella diffusione, per esempio, del mito di Soros, che è la versione aggiornata dei protocolli dei savi anziani di Sion, cioè la teoria, la madre di tutte le teorie della cospirazione ebraica. Ecco, quindi questo è quello che sta succedendo adesso. Il governo israeliano distribuisce patenti di legittimità ideologica sotto il profilo dell'antisemitismo a coloro che viceversa sono antisemiti, lo sanno benissimo anche loro. In cambio di cosa? In cambio di una totale adesione a ogni politica israeliana, secondo un'operazione che io cerco di ricostruire nel mio libro, di risemantizzazione, cioè di cambiare il significato della parola antisemita per venire incontro all'agenda politica dell'attuale governo israeliano. Tutte queste iniziative sono evidentemente mirate a questo scopo. Ci sono state delle defezioni all'interno delle chiamate che il governo israeliano ha fatto alle varie comunità ebraiche, alcuni hanno deciso, insomma, anche esponenti importanti della letteratura, molti francesi se non mi sbaglio, di non andare più in Israele dopo aver visto gli inviti appunto, ai nazionalisti europei. Questo c'è in questo senso, quindi ancora un dibattito all'interno diciamo, della stessa comunità ebraica del concetto di antisemitismo, oppure no? Ma sì, il dibattito c'è, diciamo che hanno tirato in questa occasione hanno tirato troppo la corda e quindi persino gente che fino a quel momento era disposta a sorvolare sulle incongruenze a cui ho fatto accenno prima, adesso non ce la fa più neanche loro, neanche Bernard Henri Lévy, Alain Finkielkraut e tutti coloro che sono sostenitori a oltranza di Israele e delle sue politiche non ce la fanno più a seguire anche su questo piano perché appunto è molto imbarazzante l'elenco degli ospiti e dei relatori a questo convegno. Il dibattito c'è, adesso prendendo invece in considerazione la parte più seria di questo dibattito, ovvero il dibattito è: quanto delle manifestazioni visceralmente anti-israeliane possono essere rubricate sotto l'etichetta di antisemitismo? Ed è questa la natura del dibattito, ovvero c'è chi da un po' di tempo sostiene che vi siano alcune espressioni di ostilità contro le politiche israeliane che in realtà nasconderebbero una avversione a priori di tipo razzista, quindi di ordine antisemita, ovvero che l'antisionismo, se vogliamo chiamarlo così, potrebbe essere visto come uno schermo per mascherare le vere intenzioni che sono antisemite, insomma, il cosiddetto eterno antisemitismo. Questa tesi è molto contestata, ma non perché non capiti mai che vi siano manifestazioni anti-israeliane, diciamo, condite di sentimenti antisemiti. Ogni tanto succede che, infatti, il discorso contro Israele si mescoli con elementi tratti dall'archivio antiebraico, così come può capitare anche che degli antisemiti veri si nascondano dietro alla critica a Israele per mascherare le loro vere intenzioni, ma sono dei casi in cui, diciamo, i due repertori, i due archivi si sovrappongono e si mescolano. Il problema però e la natura del dibattito si tratta di casi particolari da individuare in quanto tali, o davvero c'è una convergenza tra antisemitismo e antisionismo? Questa è la tesi che io, insieme a tanti storici e tanti studiosi, contesto, ovvero che si possano grosso modo equiparare i due concetti, che viceversa vanno tenuti separati, sono due cose diverse, due fenomeni. In un caso abbiamo un fenomeno di razzismo, perché l'antisemitismo è una forma di razzismo, nell'altro caso abbiamo una critica, a volte anche un'ostilità. Io adesso non sto discutendo di quanto sia o non sia ragionevole questa ostilità, ma di ordine politico nei confronti delle scelte di uno Stato e anche della stessa idea che sta alla base del sionismo. Sono due discorsi diversi che vanno considerati separatamente perché hanno due storie, due genealogie diverse. Confonderle serve soltanto a agevolare coloro che vogliono dimostrare che ogni critica a Israele di fatto è mossa da intenzioni antisemite e non dalla legittima possibilità di opporsi alle scelte politiche di un paese. Su questo, insomma, anche il professor Traverso, nel suo libro che lei cita anche, ne aveva, insomma, nel suo libro su Gaza, aveva già parlato molto di questo, ma non pensa che, poi entriamo nello specifico, più in profondità sul libro, che l'aver portato nel primo giorno di convegno gli internazionali, i leader internazionali a visitare la cosiddetta Giudea e Samaria e i luoghi del 7 ottobre non abbia subito affiancato gli oppositori di Israele con gli antisemiti? L'idea è vi porto sui luoghi del 7 ottobre per dimostrare, la tesi non è neanche implicita, come dicevo prima, è esplicita, per dimostrare che quegli eventi, per tremendi che siano, nessuno nega che siano stati tremendi gli eventi del 7 ottobre, fossero mossi non da una discutibile quanto vogliamo, avversione, ostilità radicale nei confronti di Israele, bensì da una radicale ostilità nei confronti degli ebrei. Israele e gli ebrei non sono la stessa cosa. E invece uno degli scopi, uno degli obiettivi di questi governi etno-nazionalisti israeliani degli ultimi decenni è, tra le altre cose, di far convergere anche la categoria degli ebrei con Israele. Ebrei, ebraismo e Israele sarebbero la stessa cosa. Dunque, un attacco a Israele equivale ad un attacco di tipo antisemita, un attacco contro gli ebrei. Ecco, tutte queste sono dei collassi categoriali, cioè delle categorie che vengono sovrapposte tra loro per seguire un'agenda che non è molto difficile individuare. Allora, nel suo libro lei inizia parlando appunto della parola, appunto, ovviamente antisemita, dapprima rivendicata con orgoglio dai razzisti otto e novecenteschi, poi associata alla memoria dei peggiori crimini contro l'umanità, la sua parabola pareva conclusa con la sconfitta del nazifascismo. Così evidentemente non è stata. Cosa è successo? E a chi si può applicare oggi l'etichetta di antisemita? L'antisemitismo è un fenomeno ovviamente storico con un suo sviluppo, il suo picco a cavallo tra 8 e 900, quando certe teorie di stampo appunto razzista che proiettavano sugli ebrei lo stereotipo anche complesso e contraddittorio di questa figura di un presunto eterno ebreo dotato di caratteristiche antitetiche tra loro contemporaneamente, imbelle e guerrafondaio, comunista e capitalista e così via, e che poi si configura nel mito del cospiratore, appunto del ritratto dei savi anziani di Sion, che sono questo falso documento confezionato dalla polizia segreta zarista tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, con il quale poi Hitler giustificò lo sterminio. Ecco, questo è l'antisemitismo che con la Seconda Guerra Mondiale raggiunge il suo apice, naturalmente, persecuzioni che raggiungono il loro apice in quel periodo. Dopo la guerra, una condanna unanime grava sulla concetto di antisemitismo, e pertanto, conseguenza di ciò, nessuno tra gli odierni antisemiti osa definirsi antisemita. È una parola su cui gravano appunto dei crimini troppo terribili perché qualcuno possa rivendicarla, continuare a rivendicarla con orgoglio. Questo non vuol dire che l'antisemitismo sia sparito, continua a esistere, ma spesso sotto mentite spoglie, cioè attraverso strategie più oblique e meno dirette di quanto non accadesse in passato. Ci sono degli alti e bassi nella curva dell'antisemitismo del dopoguerra, ci sono dei periodi in cui cresce, dei periodi in cui sembra più sotto controllo. Tendenzialmente è un fenomeno che tuttora riguarda prevalentemente le estreme destre, in continuità con le ideologie tecnologie da cui provengono, che possa ogni tanto anche comparire sotto forma di frammenti di archivio antiebraico anche in discorsi che non sono, che ufficialmente non riconoscono come proprio bacino ideologico la destra, è, come dico, un fatto abbastanza marginale, tuttora abbastanza marginale. Quindi sì, la storia della parola segue anche la storia del fenomeno e come tutte le parole, anche questa cambia di significato sotto la pressione degli eventi e delle esigenze comunicative, per cui le parole non rimangono sempre fisse, cambiano spontaneamente di significato. Ma la storia che ho cercato di ricostruire nel mio libro è una storia più recente e riguarda il tentativo di manipolare dall'alto il significato di questa parola per farle cambiare il senso principale, per spingere ai margini il vero significato della parola antisemita, che è quella che grosso modo provavo a spiegare prima, per sostituirla appunto con l'idea che l'antisemitismo oggi si esprimerebbe prevalentemente nella critica troppo radicale, troppo viscerale nei confronti di Israele. L'idea di base, essendo Israele è lo Stato ebraico, e i nuovi antisemiti, presunti nuovi antisemiti, proietterebbero su Israele, sullo Stato di Israele, quello stesso stereotipo che in passato applicavano nel discriminare e perseguitare gli ebrei in quanto individui. Per dimostrare che c'è questa continuità presunta tra vecchio e nuovo antisemitismo, bisognerebbe anche dimostrare che coloro che sono radicalmente ostili verso Israele rappresentano, raffigurano Israele con gli stessi tratti che in passato venivano adottati per discriminare gli ebrei come individui, ovvero che il ritratto dei savi anziani di Sion bisognerebbe dimostrare che si è trasferito nella rappresentazione caricaturale dello Stato di Israele. Ciò non è il caso, perché se prestiamo attenzione a quali sono i tratti che tendenzialmente anche i nemici più accesi di Israele, i tratti che proiettano su Israele, sono, a dir la verità, diametralmente opposti rispetto a quelli che in passato venivano proiettati sugli ebrei, ovvero mentre prima degli ebrei si diceva la calunnia antiebraica era quella per cui, secondo cui gli ebrei erano doppi, subdoli, che agiscono nell'ombra per tramare alle spalle dei gentili e per conquistare il mondo in maniera nascosta, segreta e così via, le critiche, anche le più forti contro Israele, attribuiscono esattamente tratti opposti a Israele. Israele è detestato per via della sua arroganza, della sua belligeranza alla luce del sole. Non c'è nulla che assomigli nel ritratto che si applica a Israele ai tratti che venivano viceversa attribuiti agli ebrei. Quindi non c'è questa continuità tra l'antisemitismo e ciò che alcuni oggi definiscono il nuovo antisemitismo, cioè l'antisionismo. Sono due fenomeni diversi. Lei prima ha citato Soros, nel suo libro ne parla molto. Come si arriva a Dai Soros? cavi di Sion a Soros. Beh, comunque l'idea è sempre che c'è qualche potenza occulta, di solito dotata di enormi risorse economiche, a loro volta più o meno occulte, che utilizzando mezzi fraudolenti e subdoli rincitrullisce il resto del mondo in modo da perseguire di nascosto i propri progetti di dominio mondiale. Questi sono i savi anziani di Sion, i cospiratori per eccellenza. Ora, in molta della propaganda di destra anti-Soros, che è esplosa a partire da intorno al 2015 e che tutti i partiti, tutti senza eccezioni di estrema destra nel mondo hanno fatto propria, questa figura è stata si incarna nella figura, per l'appunto, nel personaggio di Soros, in quanto effettivamente personaggio controverso, simultaneamente filantropo e speculatore, quindi la doppiezza è in qualche modo è facile attribuirgliela, visto che per certi versi sta nei fatti. Soros è contemporaneamente colui che con le sue operazioni finanziarie ha affossato la sterlina e la lira negli anni 90, quindi colui che ha agito in maniera molto spregiudicata secondo le leggi del mercato, ma è anche colui che ha investito molte delle sue risorse per promuovere le agende, diciamo, progressiste o liberali o dentro in vari paesi del mondo. Quindi con attività filantropiche che lui rivendica. Secondo Soros non c'è contraddizione tra queste due attività. Si potrebbe discutere, perché naturalmente è del tutto legittimo discutere della legittimità di individui privati che, grazie alle loro enormi risorse, possono agire politicamente sul corso degli eventi nel mondo, ma questo non vale solo per Soros, vale per tutti i tecnocrati miliardari del mondo, a cominciare da Musk, per esempio, che appunto mettono insieme queste due facce. Salvo che nel caso di Soros, essendo lui ebreo, è stato risultato facile da parte degli esponenti delle destre mondiali rigirare questa legittima critica al turbocapitalismo filantropico in chiave razzista, e applicando quindi nei meme, nel modo in cui veniva rappresentato in rete e non solo, nelle teorie che vengono continuamente spacciate, e la grande sostituzione e via dicendo, l'idea sostanzialmente che Soros sia il burattinaio nascosto della politica mondiale. In ciò cosa hanno fatto? Hanno ripristinato i vecchi stereotipi antisemiti senza neanche premurarsi più di tanto di nascondere le tracce, insomma, e hanno rimesso in circolazione i peggiori stereotipi anti-ebraici e antisemiti sotto questa in questa nuova veste. Che poi siano le stesse persone che oggi vanno, appunto, che oggi vanno, si affrettano a denunciare il presunto antisemitismo di sinistra, fa un po' specie, no? Perché sono appunto coloro che praticano questo antisemitismo classico e poi dopo riversano sulle sinistre antagoniste o su chiunque si identifichi per esempio, con la causa palestinese, riversano l'accusa, ribaltano l'accusa con il benestare del governo israeliano. Volevo tornare sempre nel suo libro, perché lei fa ovviamente una storia di come è cambiata e come si è arrivato oggi, insomma, alla questione dell'antisemitismo e dell'antisionismo, o comunque di essere arrivate al fatto che paradossalmente oggi vengono additate come persone antisemite quelle che in realtà hanno anche lottato e lavorato affinché l'antisemitismo, insomma, venisse in qualche maniera ucciso, tolto dalla storia, penso, insomma, tra le resistenze in Italia. Però volevo ritornare agli anni 90, che sono un momento appunto molto importante, non soltanto in Italia, dove comunque negli anni 90 ci sono stati dei grossi, la comunità ebraica anche italiana ha insieme appunto alle sinistre lavorato tantissimo affinché venissero chiuse tante sedi, per esempio di movimento politico, cioè c'era un'unione in questo, nel andare proprio a capire e a vedere e a sconfiggere le destre che si rifacevano al fascismo, alle leggi razziali e via dicendo, ha un cambio totale di paradigma. Si assiste dal 96, lei cita nel suo libro, alla salita al potere della destra in Israele, che non se ne andrà mai più, e anche un cambio proprio di paradigma che ci porta poi ad oggi nelle destre europee, a cominciare da quella italiana. Come mai questo? Quello che succede negli anni 90, dopo la caduta del muro di Berlino, è che l'Europa, su spinta statunitense, ricostituisce la cosiddetta identità europea attorno a qualche cosa che doveva comprendere anche i paesi dell'Est Europa e si decide probabilmente anche in mancanza di un progetto un po' più articolato politicamente di mettere come baricentro dell'identità europea, come centro di identità europea, il ricordo dei grandi traumi del passato, a cominciare dalla Shoah, e quindi di costituire questa identità europea barra occidentale attorno alla promessa solenne del mai più, che quante volte l'abbiamo sentita ripetere in tutti i rituali della memoria. Ovvero l'idea è che attraverso il ricordo del trauma della Shoah e per estensione dei crimini sovietici, tutto il mondo occidentale sarebbe dovuto ritrovare attorno ad una narrazione comune, che è quella oramai molto nota e familiare, che divide il mondo in vittime e carnefici e che ovviamente incoraggia l'identificazione con le vittime. E questo doveva essere un po' come la bandiera delle liberal democrazie a partire dagli anni 90. Ora il problema è che questa memoria della Shoah, che in realtà dal punto di vista storico era vissuta diversamente di paese in paese, perché ogni paese, soprattutto in Europa, aveva avuto i suoi trascorsi diversi durante la Seconda Guerra Mondiale, per poter andare bene per tutti, viene svuotata dei suoi contenuti storici più specifici e diventa una sorta di narrazione a uso comune, molto schematizzata, molto banalizzata. Tale per cui si è finito per incoraggiare una identificazione di chiunque, inclusi i partiti di destra che si sentivano tagliati fuori dalla storia e dalla memoria, con il ruolo di vittime. Cioè, questi a un certo punto, intorno agli anni 2000, cominciano a capire che possono riraccontare anche la loro storia mettendosi dentro al ruolo delle vittime, rappresentandosi come vittime. Rimane lo schema comune, salvo che cambiano i personaggi. Ora, nel momento in cui anche le destre cominciano a rappresentarsi come vittime della storia, si svuota, capisce completamente il senso di questa narrazione e diventa uno strumento che chiunque può impugnare, uno strumento ideologico che chiunque può impugnare per rivendicare le sue attuali ragioni sulla scorta di torti veri o presunti subiti in passato dalle o anche dalle generazioni precedenti. Ecco, quindi in qualche modo paradossale, tutta questa cultura e queste politiche della memoria degli ultimi 30 anni hanno agevolato l'ascesa delle destre xenofobe, anche perché questo culto della memoria ha cominciato ad assumere i caratteri sacralizzati di una sorta di religione civile. Ciò ha comportato anche una deriva autoritaria, che adesso non so se sono in grado di riassumere in poche parole, ma fondamentalmente, cioè, comincia a esserci l'idea che alcune persone, alcuni soggetti hanno più diritto di altri di rappresentarsi come vittime della storia, alcuni soggetti hanno più diritto di altri di stabilire quali sono i formati adatti della memoria, cioè i modi giusti per commemorare gli eventi fondativi del passato, gli eventi traumatici del passato. Per esempio, Israele, in quanto stato ebraico, ritiene di avere questi diritti, cioè di Certo, questo lo dice poter, bene nel suo libro ecco, Enzo Traverso. esercitare un monopolio su Beh, questa certo, storia. anche no, diciamo così, anche quando le stesse parole olocausto, gli stessi ebrei che hanno creato la parola olocausto, insomma, c'è tanta contraddizione su questo e c'è anche tanta discussione. Cioè, in Israele vivono la minor presenza di ebrei nel mondo, non c'è la maggioranza degli ebrei in Israele. No, beh, adesso non esageriamo, è l'unico paese a maggioranza Sì, ebraica, certo, no, dico, non è che evidentemente. racchiude però, diciamo così, gli ebrei di tutto il mondo, non so come No, dire. beh, cioè, diciamo che grosso modo un po' più della metà degli ebrei del mondo non vive in Israele, ha scelto di non vivere in Israele, quindi chiaro che Israele non può rappresentare l'ebraismo tutto. Diciamo che sono grosso modo 15 milioni gli ebrei nel mondo, anche se non è facile fare le stime, la metà più o meno vive in Israele, l'altra l'altra metà, un po' di più, vive fuori dai confini israeliani, dunque hanno scelto di non vivere in Israele. Ecco, però Israele, in quanto stato ebraico, termine, espressione di per sé piuttosto controversa e discutibile, perché discrimina contro il 25% dei cittadini israeliani che ebrei non sono, ma diciamo, in quanto stato ebraico, ritiene di poter esercitare un monopolio, rivendica questo monopolio non soltanto sulla memoria della Shoah, ma anche del lessico, sugli usi del lessico. Per esempio, chi esercita questo monopolio può anche stabilire quali paragoni sono legittimi e quali non lo sono, a quali altri eventi possono essere paragonati con il genocidio ebraico e per quali altri paragoni invece scatta un'accusa di banalizzazione o strumentalizzazione, eccetera. Chi decide quali paragoni sono legittimi e quali no, eccetera, eccetera. Quindi infuriano le più feroci polemiche, ma non da poco, almeno da 30 anni, forse più da questa parte, attorno ai formati della memoria e soprattutto a chi può ritenersi guardiano di questa memoria. Quindi uno degli effetti è che si privatizza la memoria. La memoria è di qualcuno che ritiene di poterne fare certi usi e di stabilire quali sono gli usi legittimi e quali no. E nel momento in cui la memoria è diventata una risorsa, un patrimonio simbolico da spendere sulla scena politica e pubblica, si capisce che la posta in gioco è alta, perché chiunque possa parlare a nome delle vittime o degli eredi di quelle vittime, dei grandi traumi storici, eccetera, eccetera, insomma, ottiene anche una sorta di priorità argomentativa o comunque retorica nei discorsi che fa, nelle rivendicazioni che avanza. Ecco, io penso infatti che tutto questo lavoro che è stato fatto, probabilmente anche in buona fede all'inizio perlomeno, sulla memoria come collante ideologico che avrebbe dovuto tenerci tutti insieme, ha prodotto effetti opposti, controproducenti, tra cui anche il fatto di agevolare l'ascesa dei partiti xenofobi mondiali. Che lei insomma analizza anche citando nel suo libro l'indagine che è stata fatta da Fanpage, per esempio per quanto riguarda la destra italiana, in particolare di Fratelli d'Italia. Sì. Beh, sì, da quelle indagini si capiva molto bene che appunto adesso non si sa come non si riesce a quantificare, ma che perlomeno presso alcuni giovani di destra che si identificano appunto con Fratelli d'Italia, una parte della gioventù italiana, continua a parlare con il gergo, i termini razzisti dei nonni e dei bisnonni, cioè utilizzano le stesse espressioni, lo stesso repertorio razzista e antisemita. Che evidentemente non si è spento, le cui braci non si sono spente, però fa specie vedere come è stata ricevuta questa indagine da parte di anche membri del governo di destra italiano e anche da parte di certa stampa di destra italiana, dove hanno cercato di minimizzare l'entità dello scandalo, della situazione che si era rivelata attraverso questa indagine, questa inchiesta, viceversa, di nuovo ribattendo che il vero problema, il vero antisemitismo non si trova a destra, bensì, tanto per cambiare, a sinistra, Nelle dove piazze, nelle nostre università che hanno bruciato le bandiere di Israele, disse il primo luglio del fino a che appunto. 24, lo cito dal suo libro, ma che lei riprende dall'Huffington Post, il ministro degli interni, nonché altri insomma, politici di cui sappiamo spesso delle esternazioni, molto diffuso a sinistra l'antisemitismo, detto da Italo Bocchina 8 e mezzo, insomma il 28 giugno 2024, più diffuso a sinistra che a destra oggi. Questo ci viene detto da Italo Bocchino. Basta vedere le manifestazioni della sinistra. Questo è una questione che io trovo molto pericolosa perché alla fine non soltanto insomma, si sta sdoganando tutto, veramente anche un becero fascismo, estremismo di destra, che non è soltanto economico, ma è anche proprio squadrista che è di prevaricazione, che è di un linguaggio, di una violenza estrema. Basta guardare quello che sta succedendo negli Stati Uniti con Trump, che è violento sia nella fisicità, per cui no, si può in qualche maniera decidere che il modello Israele in qualche maniera, per cui prendo e deporto o uccido chi si trova nel mio cammino, e, come sta facendo Trump, come abbiamo visto l'immagine dei venezuelani o di, insomma, e che è un modello che, insomma, la Fortezza Europa in qualche maniera, il Mar Mediterraneo ne è pieno, ha praticato e pratica da tantissimi decenni, ma che esclude totalmente, no, le persone, che La noi. differenza adesso che viene rivendicato, prima si faceva in silenzio e si negava quando, Certo, ecco, adesso si fa adesso viene come. rivendicato. Sì, Questa è la adesso è cosa che proprio la fa politica. paura. Perché uno potrebbe dire: ah, beh, almeno abbiamo tolto il velo dell'ipocrisia, almeno questo è quello che si faceva prima, adesso lo si dice. Beh, no, secondo me è peggio in questa maniera, perché se non c'è neanche il bisogno di negare, di giustificare, vuol dire che non esiste un luogo altro dove qualcuno ti può giudicare e eventualmente anche fermare nel momento in cui si stabilisce che va bene così, che è giusto così. Il tutto appunto con la benedizione, il sigillo della memoria. Che Certo. dice, che stabilisce che queste operazioni in alcuni casi si possono fare senza che ci possano essere giudizi morali, etici o politici negativi, perché chi li formula viene automaticamente accusato di essere antisemita. E questa è il problema, la cosa da assolutamente da rifiutare, questa equazione va combattuta in tutti i modi, perché porta soltanto ad agevolare questa confusione, queste prevaricazioni e queste prepotenze. Tra l'altro, questa trasformazione del significato della parola che io ricostruisco nel libro è avvenuta per gradi ed è Certo. avvenuta attraverso un preciso lavoro da parte di su spinta dei governi di destra israeliani. Sappiamo che sono al potere ormai dall'inizio del secolo, forse in realtà anche da prima, ma poi diciamo, con la connivenza, la partecipazione di certe organizzazioni europee e americane. Che anche lì non si capisce bene quanto per ingenuità e quanto per attiva connivenza e partecipazione, insomma, hanno agevolato questa trasformazione nefasta del termine, del significato del termine. Quindi organizzazioni ufficialmente preposte alla lotta contro l'antisemitismo e il razzismo, sia in Europa ma sia soprattutto negli Stati Uniti, che in origine magari svolgevano questa funzione. Sono state, come dire, occupate da soggetti sempre più apertamente allineati sulle politiche dell'ultradestra israeliana, fino al punto che sono ormai diventate indistinguibili nelle loro agende. L'Anti-Defamation League, le Simon Wiesenthal Center, che prima erano centri di ricerca con i quali si poteva essere più o meno d'accordo, ma che comunque svolgevano una funzione, tenevano dentro le diverse anime anche di un mondo ebraico sfaccettato, come di fatto è, c'è stato proprio un takeover, l'espressione proprio commerciale, un takeover da parte di una parte politica che si è presa il tutto e, con l'autorevolezza però di queste istituzioni, ha fatto passare una definizione nuova di antisemitismo, quella che appiattisce l'antisemitismo sull'antisionismo, patrocinata in questo momento da un'organizzazione molto autorevole internazionale, che è l'International Holocaust Remembrance Alliance, AIRA, E con i risultati che vediamo, queste espulsioni nelle università americane, ma guardate che non è finita qui la questione, a parte che negli Stati Uniti, ma a quanto mi dicono, anche in Italia si sta considerando, anche a livello di istituzioni, di adoperare, di integrare nei regolamenti anche universitari, per esempio, questa definizione AIRA dell'antisemitismo. conseguenze possono essere veramente esplosive se viene poi applicata di fatto, perché equivale a zittire il dissenso. Applicare in maniera letterale questa definizione vuol dire zittire ogni sorta di protesta e dissenso nei confronti delle politiche israeliane, e qualunque manifestazione pro-palestinese viene immediatamente tacciata di antisemitismo. Ecco, questo è proprio è il Questo, pericolo infatti, principale. lei lo cita, nel 2018, nel 2016 hanno cambiato la definizione, Sì. a Bucarest, che ha portato, insomma, la Germania, ultimamente a negare, l'entrata addirittura sul suo suolo se non si riconosce o non si parla bene dello Stato di Israele. Qual è il ruolo che a questo punto mi chiedo gli Stati Uniti d'America principalmente, ma visti gli accordi, probabilmente anche la Russia, visto anche il grossissimo legame che Israele ha con la Russia, calcolando non so, che la seconda lingua ufficiale, un tempo addirittura la prima, è il russo in Israele, stanno dando a Israele non soltanto quello ovviamente del genocidio palestinese, di completare il colonialismo della terra di Palestina, di espellere, di mandare non si sa bene che cosa vogliano farci con questi palestinesi, ma evidentemente anche quello di prendere la Siria, di prendere parte del Libano, ma poi di arrivare a qualche politica nei confronti dell'Europa. Io lo chiedo a lei, in quanto molto docente, ma anche conosce insomma bene, cioè io non riesco neanche a capire quale poi è il ruolo che si vuole dare in un prossimo futuro a Israele, che non finirà certo con l'eliminazione dei palestinesi, mi sembra Adesso, ovvio. quello che però noi stiamo parlando di una parte, grazie a Dio, mondo ebraico, diasporico, è composto da persone che coprono ogni possibilità dello spettro politico, quindi non c'è un'unica visione delle cose, ma pure in Israele emerge, forse non abbastanza, ma che esiste anche un dissenso rispetto a questa interpretazione etno-nazionalista del sionismo. Quindi io penso che se si vuole cercare di superare questa terribile fase, si debba anche così lasciare spazio e creare spazio per l'espressione delle voci dissenzienti, cosa che in un regime sempre più dittatoriale è difficile, ma il nostro compito è proprio di aprire questi spazi e di combattere strenuamente contro chiunque li voglia chiudere e così. Poi, per quanto riguarda le politiche attualmente perseguite in questa congiuntura, è evidente che si sono trovati proprio la componente più radicalmente etno-nazionalista del governo ebraico si è trovata bene con un governo americano che in questo momento gli sta dando sostanzialmente carta bianca. Però non dimentichiamo che queste correnti qui, che adesso sono prevalenti in Israele, che governano in Israele, per tanti anni, decenni erano in realtà minoritarie e non e queste tesi che oggi vediamo concretizzarsi nelle politiche suggerite da Ben-Gvir, patrocinate da Smotrich e dallo stesso Netanyahu, eccetera, eccetera, per lungo tempo erano considerate addirittura fuori legge in Israele. Quel ramo lì, quella tendenza del sionismo lì era, che fa capo a Meir Kahan, non era assolutamente maggioritaria in passato. È successo in questi anni, è successo in questi anni questa decisa virata a destra delle politiche israeliane, che in qualche modo hanno scoraggiato, ridotto lo spazio del dissenso interno. Però non è che non esista questo dissenso interno, andrebbe così incoraggiato, promosso e via dicendo. Poi sì, ci sono dei personaggi la cui storia io provo a ricostruire in questo libro. Lei parlava prima dell'immigrazione russa in Israele, e c'è uno tra l'altro uno dei relatori nel convegno sull'antisemitismo che c'è stato in questi giorni, uno dei relatori è per l'appunto Nathan Sharansky, che è un protagonista della vicenda che stiamo raccontando, personaggio molto controverso, figlio di ebrei ucraini, dissidente, ex dissidente sovietico, eccetera, eccetera, che arriva in Israele negli anni 80-90, anzi, e che acquista, che raggiunge le posizioni apicali, e che diventa anche un po', diciamo, l'ideatore di questa svolta e di questo cambiamento del significato della parola antisemita. È uno dei principali autori, perché appunto è tra coloro che identificano l'antisionismo con l'antisemitismo e con grande capacità politica riesce a far passare la sua tesi, coordinando le attività dei vari centri di ricerca sull'antisemitismo nel mondo e ponendosi come dire, garante di queste attività coordinate. Ed è lui che fa passare l'idea di Israele come ebreo collettivo, sul quale si riverserebbero tutti i pregiudizi che in passato erano rivolti contro gli ebrei in quanto tali, eccetera, eccetera. E infatti non mi ha stupito vederlo nell'elenco dei relatori di questo convegno. Ecco, secondo me a volte conviene anche appunto non parlare in generale di Israele, gli Stati Uniti, la Russia e così, ma cercare di ricostruire le dinamiche più minute che hanno portato certi personaggi a conquistare, con il consenso naturalmente di cui godevano, non sono da soli, ma comunque a conquistare la scena politica e di fatto a far sì che i loro piani e progetti venissero realizzati senza eccessivi ostacoli da parte di voci dissenzienti. Bene, chiarata, insomma, io continuerei per ore. Un libro, appunto, come ha detto lei, c'è anche tutta la storia di come si arriva a questa nuova definizione della parola antisemitismo. Come mai si chiama Working Definition? Nel senso di operativa, perché è una via di mezzo tra una definizione nel senso analitico-scientifico del termine, strumento scientifico per analizzare i fenomeni, e uno strumento giuridico da applicare per identificare gli antisemiti veri o presunti e per prendere provvedimenti. Quindi è una definizione operativa che ha delle, diciamo, conseguenze pratiche, che viene applicata per scopi anche pratici, ed è questo il problema delle definizioni, che difficilmente sono neutre e fini a se stesse. Le definizioni di parole così cariche, così sensibili, di solito servono a porre le basi per qualche provvedimento di tipo giuridico, quello che sta succedendo infatti in questi giorni. Certo, i codici di condotta che stanno passando, appunto, che sono iniziati, come lei diceva, nelle università, no? Si inizia sempre dal sapere. Anche Sì. Trump stesso ha dato subito delle linee guida, no? Alcune Sì, parole. per esempio in Gran Bretagna è servito Bravo, volevo parlare infatti proprio della Gran fuori codice. Bretagna. Sì, queste linee guida applicate nel contesto britannico per cercare di proprio letteralmente per delegittimare e far fuori Jeremy Corbyn ci sono riusciti grazie a questa definizione di antisemitismo, per cui Corbyn è stato accusato, ingiustamente accusato di antisemitismo, lui e il suo partito, a partire da alcuni minimi episodi che erano capitati, soprattutto in rete, ma veramente se poi si va a vedere l'entità degli episodi che hanno fatto scattare questa accusa di antisemitismo, è quasi ridicola la storia. Ecco, sulla base di una campagna molto martellante da parte dei media britannici, in cui venivano presi di mira soprattutto Corbyn e il suo entourage con questa accusa di antisemitismo, che in realtà Corbyn sì, effettivamente è piuttosto anti. Corbyn non ha mai fatto segreto del fatto che lui si identifica di più con la causa palestinese che con le ragioni di Israele, ma non c'è niente di illegittimo di per sé nel privilegiare una prospettiva su un'altra in un conflitto. Certamente non è una cosa, una posizione meritevole di accuse di razzismo e antisemitismo, perché non è un pregiudizio a priori contro gli ebrei che porta Corbyn o chi si identifica con le sue scelte politiche ad assumere un atteggiamento molto molto critico nei confronti di Israele. Però a partire da questa da alcune sue esternazioni, alcune delle quali effettivamente poteva anche evitarsele, ma non erano così importanti, e soprattutto a partire da una volontà di farlo fuori per altri motivi, perché Corbyn era troppo di sinistra, perché Corbyn predicava delle Certo, ma politiche. all'interno dell'Ebor, insomma, Sì, comunque. persino all'interno, la massima opposizione lui l'ha ricevuta, l'ha Ah, trovata all'interno sì. del suo partito. Ecco, volevano eliminarlo e hanno utilizzato questo grimaldello, questo strumento che è la definizione di nuovo antisemitismo per giustificare questa operazione, e ci sono riusciti. Sì, infatti, anche se poi Corbyn ha fatto una lista indipendente, è stato addirittura, ha preso pure un sacco di voti e si è candidato comunque Sì. ed è stato eletto, ha aperto insomma l'ultima manifestazione nazionale a Londra a sostegno dei palestinesi, l'ha aperta lui, l'ha convocata No, comunque il dico che social sia un uomo network. finito, ma diciamo che gli è andato un bel colpo, ecco. Volevo finire con lei, visto che lei lavora all'università, un commento, insomma, secondo lei su cosa sta succedendo nelle università italiane e come è stato accolto il suo libro, perché lei nel suo libro cita anche, non mi ricordo, sì, forse lo cita proprio, anche, insomma, delle recensioni negative su altri suoi libri, su alcuni giornali, quotidiani. Quindi volevo capire un po' qual era stato il dibattito in Italia sul suo libro e qual è adesso, secondo lei, anche il dibattito all'interno delle università. Visto che In comincia. realtà poca roba di dibattito in questo momento. Non, a me sembra che non ci siamo ancora entrati nel dibattito vero e proprio. Ci sono alcune organizzazioni che, come Mai Indifferenti, Lea, il laboratorio ebraico antirazzista, insomma, organizzazioni ebraiche di sinistra che recentemente si sono fatte sentire, hanno promosso delle iniziative e hanno un pochino smosso un dibattito assente o molto stagnante in questo paese. Per fortuna che ci sono loro, però in realtà non è che ci sia, paragonato a ciò che accade in altri paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, dove è molto vivace il dibattito. Qui in Italia per il momento non c'è gran cosa, diciamo, quasi come è quasi. L'impressione a volte è che non ci sia bisogno di esercitare la censura, perché tanto c'è già l'autocensura. Perfetto, io con questo io la ringrazio tantissimo. Ricordo insomma che se vuole ricordarlo lei, il titolo del libro, abbiamo parlato con Valentina Pisanti che per Bompiani ha scritto il libro Antisemita, una parola in ostaggio. Una parola in ostaggio, professoressa all'Università di Bergamo, semiologa. Io la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Radio Onda Rossa, insomma, Okay. quando vuole è sempre aperta al confronto e alla discussione. E alla prossima. Grazie mille, arrivederci.